I due galli da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Vivean due galli in armonia, quando ecco arriva una gallina. Addio pace, ciascun aguzza il becco. O amor, per te fur visti i fiumi, diglio d'umano sangue andar vermigli, al sangue misto dei celesti numi. Fra i nostri galli un pezzo durò la guerra, alto rumor ne suona nel paese e ne parla ogni persona. Accorron tutti quei che volentieri fan pompa agli spettacoli, e fu mercede al vincitor più d'una delle lucide penne Elena Bella. Il vinto sparve e il duol che la rovella nascose e pianse i suoi perduti amori. Col diritto il rival dei vincitori gli toglie l'idol suo, che in pieno giorno superbo mena intorno, sfidando la gelosa ira e il coraggio del debellato amante, che intanto l'arme aguzza e l'ali al volo esercita ed aspetta segretamente il dì della vendetta. E non molto aspettò, lo stesso dì che alterro il vincitor a far galloria cantava in cima al tetto la vittoria, un feroce avvoltoio che l'udì addosso a lui piombò e a Dio gloria con l'unghia lo finì. La fortuna fa spesso agli insolenti di questi tiri e insegna a diffidar dei fortunati eventi. Fine della favola, I due galli. Questa registrazione è di dominio pubblico.